a caccia di risposte, ma spesso non risponde, allora chiedi solo un po' di pace. Chiuso in convenzioni che ti allontanano dal vero, pensi solo a divertirti, poi ecco il tempo delle scelte. Si arriva sempre ad un bivio, due strade davanti così diverse tra loro, vanno verso nuovi giorni, puoi scegliere di vivere o gettare il tempo aspettando che ritorni. Pensi a tutti gli amici, a quanto ti hanno ispirato, coi fatti e con le parole ti ha mostrato una via. Credi di essere nel giusto, allora pensa bene, non tremare, non lasciare che ti guidino quando ti vogliono consigliare. Si arriva sempre ad un bivio, due strade davanti così diverse tra loro, vanno verso nuovi giorni, puoi scegliere di vivere o gettare il tempo aspettando che ritorni. Guardi indietro, ma non c'è niente che ti aiuti. Non sentirti mai legato e non aver paura di cambiare. Non è tempo di dormire, metti in un cassetto i sogni. Segui la musica e il ritmo del tuo cuore, non gli squallidi bisogni.